Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Buongiorno, buongiorno a tutti da parte di Filippo Glorioso, bentrovati. Io dico sempre quando c'è una bella giornata, insomma, psicologicamente ci si sente più in forma, più propensi al lavoro. Quando il cielo è plumbeo e minaccia pioggia e c'è freddo, insomma, viene da starsene a casa, non viene proprio di farsi le passeggiate lungo le nostre statali. Oggi è una giornata all'insegna di quello che è successo nelle ultime settimane. A proposito, tutti ormai lo sapete, l'avete letto dai mass media, dai giornali, anche le televisioni locali hanno dato ampio risalto a questa notizia che vedeva in prima linea l'assessore russo alla sanità, l'assessore regionale russo alla sanità, che aveva giustamente o ingiustamente, adesso non sta a noi stabilire le motivazioni, aveva sospeso le sale parto in alcuni nosocomi, vedi Petralia, vedi San Raffaele Giglio di Cefalù, scatenando giustamente da una parte le proteste veementi, soprattutto da parte di alcuni sindaci che si sono costituiti in associazione nelle Alte Madonie, tra cui il sindaco Ferrarello, che tra poco avremo al telefono, il sindaco di Petralia Sottana, direttamente coinvolto, perché in quella cittadina sorge un nosocomio di tutto rispetto, ma un po' bistrattato negli ultimi tempi. Questa protesta, leggevamo oggi dai giornali, è rientrata perché il sindaco russo, su pressioni da diversi parti politiche, insomma, hanno fatto sì che l'assessore stesso sospendesse questa normativa, quindi rientra. Adesso sentiremo i sindaci cosa è successo di preciso, verso che cosa si va, se è uno stop temporaneo da parte dell'assessore e quindi si riparte con le sale parto nei nosocomi dove erano state indicate le chiusure, oppure se è in via definitiva. Dopodiché parleremo con il consigliere provinciale Gil Cortina, che ha fatto una protesta vistosa davanti il San Raffaele Giglio. Chiaramente non ce l'aveva contro la leadership del San Raffaele, ma la protesta era nei confronti soprattutto dell'assessore russo, il quale, come dicevo prima, ha fatto rientrare la protesta perché ha subito delle pressioni da parte di partiti politici di maggioranza e di opposizione bipartisan, come si usa dire oggi, e di conseguenza ha sospeso il diktat. Adesso io saluto gli sponsor, che sono come sempre tanti nella nostra trasmissione. Saluto un ospite che è appena arrivata, è una ballerina, avete avuto modo di ascoltarla qualche mesetto fa, dopo, prima che sospendessimo per le ferie. Volevo ringraziare il Fichi d'India di via Sant'Anna, Happy Hours, dopodiché Cocktail Tropical, ma anche stuzzichini di un certo livello, che di volta in volta voi potete vedere, leggere passando per via Sant'Anna. C'è un angolo dove vengono scritte la specialità del giorno, la specialità della sera, e di conseguenza potete veramente rilassarvi tranquillamente in un posto sobrio, sereno, con i vostri amici e le vostre amiche. Il Fichi d'India, via Sant'Anna a Castelbuono. Un'altra notizia importante, che è sempre a Castelbuono, ve l'ho detto un bel po' di volte, c'è EG Auto. A cosa vi serve? Se dovete cambiare la vostra autovettura, qualsiasi essa sia, è un'agenzia di automobili di tutto riguardo, plurimarche, passiamo dall'Audi alla Volkswagen, alla Porsche, ma chi si vuole accontentare anche di un'utilitaria, benissimo, lo può fare tranquillamente. Va da Eugenio Franco, che è il titolare di EG Auto, si mette d'accordo, sceglie il proprio automezzo che più gli aggrada, e poi naturalmente si fa dare, come dire, l'anno di garanzia, insomma tutte le contrattistiche che si fanno in quei casi. EG Auto, vi do le mail, eg.auto@libero.it, lo trovate a Castelbuono in provincia di Palermo. Detto questo, io direi prima volevo ricordare la replica di questo programma, che va in onda ogni giovedì alle 12 circa fino alle 13:15. La replica è domenica dalle 9:30 alle 10:30. Linea della regia, ci sentiamo tra poco. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali, o al suono di cavigliere del catacali. Intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. E allora rieccoci in diretta radiofonica, vi ricordo che state ascoltando Carta e Penne, studio Filippo Glorioso, 101.4, la modulazione di frequenza, potete seguirci anche sul sito www.crmepiradio.it, così potete anche vederci direttamente a casa vostra. E intanto io ringrazio per aver accettato l'invito il sindaco di Gangi, abbiamo avuto l'altra volta il piacere di ospitarlo per quanto attiene la viabilità, ma invece oggi parleremo di un altro argomento, parleremo di sanità nelle Alte Madonie. Sindaco Ferrarello, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. No, grazie a lei per la sua disponibilità. Io so che lei è molto impegnato, però riesce a trovare un pezzo di tempo per dedicare ai radioascoltatori, al suo paese stesso e chiaramente ai contribuenti del suo comune. Senta, sindaco, ultimamente c'è stata una veemente protesta da parte non soltanto sua, ma c'è stata una cordata di sindaci a partire da David, che ricordiamo è il sindaco di Polizzi, andiamo a lei che è sindaco di Gangi e poi via via per arrivare al clou che poi è il sindaco di Pedreria Sottana. Sì. Per quale motivazione, da dove è partita la protesta e perché avete protestato? Chiariamo questo a chi non avesse seguito in questi giorni la cronaca. Ma guardi, io intanto volevo precisare che noi del distretto sociosanitario che facciamo capo all'ospedale di Pedreria Sottana siamo 9 comuni e siamo tutti e 9 compatti, abbiamo un portavoce che è il sindaco di Pedreria Sottana, che è il comune capofila dove risiede l'ospedale. Naturalmente. Quindi è una battaglia di tutti e 9 i sindaci all'unanimità. E parte da lontano, in giro c'è magari qualche disinformazione perché ecco, facciamo chiarezza, si parla solo di punto nascita. Il punto nascita è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per noi il problema è l'attuazione del decreto di maggio del 2010 che noi avevamo accettato, che l'assessore Russo aveva fatto, che non è mai stato applicato. Quindi noi vogliamo che si applichi il decreto fatto a maggio del 2010, dove era previsto la rifunzionalizzazione e il rilancio dell'ospedale di Petralia Sottana con l'ortopedia. Noi hanno chiuso l'ortopedia ed è inqualificabile una cosa del genere, perché abbiamo una popolazione anziana, distiamo da Termini e da Palermo almeno 2 ore di strada, e con la viabilità che abbiamo, perché ne abbiamo parlato in altre trasmissioni e lei sa benissimo. Sindaco, la fermo un attimo, ma sì, l'assessore Russo cosa dice a sua discolpa? Perché ha tolto l'ortopedia e adesso stava cercando? Ma guardi, noi abbiamo chiesto, sì, noi abbiamo non solo l'ortopedia, parliamo della chirurgia che non funziona, servizi che non funzionano, c'è una serie di cose che non vanno, e noi abbiamo chiesto l'attuazione e abbiamo chiesto un incontro al Presidente della Regione, e quindi siamo in attesa di capire. La protesta nasce da questo, poi naturalmente il punto nascita è stato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sindaco, negli ultimi tempi, mi perdoni, perché l'una cosa non esclude l'altra. Io so, perché insomma vivo in un paese grosso come il suo, che è Castelbuono, l'altro giorno il sindaco Cicero ha portato in piazza il Consiglio Comunale perché dice che giustamente con i vari tagli che si sono succeduti con la nuova finanziaria non riescono più a dare i servizi essenziali, vedi asilo nido, vedi asili, vedi pullman, eccetera. La situazione a Gangi e poi nell'Interland, che magari ai suoi colleghi, ma a Gangi com'è? È uguale, presumo? Sì, diciamo un altro discorso, non c'entra niente con l'ospedale. No, mi riferivo al discorso che Russo taglia per mancanza di fondi. Noi siamo perché anche nel passato naturalmente dobbiamo essere onesti, ci sono stati naturalmente degli sprechi, e noi siamo per tagliare gli sprechi e per rifunzionalizzare in maniera obiettiva l'ospedale, ricollocare il personale in maniera giusta. Noi su questo siamo a fianco di chi lo vuole fare, però non significa che solo per un fatto economico si tagliano servizi in maniera così indiscriminata, perché penso che il diritto alla salute vada al di là, è un servizio, tant'è vero, va al di là del fatto economico, perché come paghiamo le tasse noi cittadini delle Madonie, penso che abbiamo gli stessi diritti che hanno i cittadini di Palermo o da altri, che magari a distanza di 1 km² hanno 6-7 ospedali. Sindaco, lei quando prevede che il Presidente della Regione vi possa ricevere e ascoltare le vostre dimostranze? Ma il Sindaco capofila, il Dottor Inguaggiato, ha mandato a nome di tutti noi, ha mandato una lettera con le nostre, diciamo, i nostri segni della protesta, dicendo che c'è bisogno di un incontro urgente. La lettera è partita ieri, io penso che il Presidente della Regione ci incontrerà quanto prima, dico, perché è necessario. Noi abbiamo occupato l'ospedale, è attualmente occupato in maniera pacifica, simbolicamente, però siamo veramente, le popolazioni, al di là di noi sindaci, siamo veramente stanchi, cioè non si può continuare a danneggiare un territorio come quello delle Madonie, che tutti parlano di rilanciarlo e invece nessuno lo rilancia. Voglio precisare un'altra cosa: noi non siamo l'antipolitica, noi non siamo contro nessuno, non siamo contro gli altri ospedali che hanno problemi, vogliamo solamente i nostri diritti, i diritti dei nostri cittadini, e come sindaci li difenderemo fino veramente ad oltranza, cioè assolutamente questa volta non intendiamo assolutamente fermarci. Mi pare che la storia, insomma, la dice lunga. Vi siete messi in un consorzio, vi state occupando pacificamente, lo sottolineiamo, il nosocomio di Petralia, perché per salvaguardare, giustamente, come ogni buon amministratore deve fare, per salvaguardare l'incolumità fisica, quindi della salute, per quanto attiene. Ma tenga presente che Petralia è anche sede di Piano Battaglia, no? Sì. Quindi lei si immagini il avendo gli impianti sciistici e non avendo anche l'ortopedia, c'è anche un danno economico anche da un punto di vista turistico, fermo restando che quello che viene prima è la salute dei nostri cittadini. Sindaco, un'ultimissima domanda molto sì. stringata, la prego anche di essere stringato lei e succinto, sì. è questa: secondo lei il dietrofronte di Russo sulle sale parto in questo momento, parliamo di questa storia, è stato dovuto alla, come dire, alla frizione con i vari esponenti politici di maggioranza e di opposizione, quindi bipartisan, o perché si è reso conto che insomma stava cavalcando una tigre un po' imbizzarrita? Ma io penso che tutto questo malcontento, questa protesta, secondo me ha fatto forse capire all'assessore Russo che c'era qualcosa da rivedere e magari, perché le cose cambiano da territorio a territorio, quindi secondo me, dico, il segnale della protesta che abbiamo fatto noi sindaci con le nostre popolazioni, quindi di conseguenza la classe politica, finalmente forse, perché devo fare una critica, non è assolutamente possibile che i nostri deputati, sia regionali che nazionali, solo quando noi ci muoviamo si presentano. I problemi al territorio lo devono conoscere sempre, quindi prevenire questo tipo di problemi. Ma penso che tutto questo ha portato naturalmente al dietrofronte o alla sospensione per rivedere meglio un po' la situazione all'assessore Russo. Io la ringrazio, sindaco Ferrarello, le auguro buon lavoro e speriamo che Gangi vada sempre più in alto, perché ha una storia di tutto riguardo. Grazie. Grazie a lei, sindaco. Buon lavoro. Grazie. Linea alla regia. Studio, e ricominciamo la trasmissione dopo la pausa pubblicitaria. Con me c'è una speaker di riguardo, dico soltanto il cognome, la dottoressa Iello, perché con quegli occhiali sembra proprio dottoressa. No, è una ragazza che ha fatto per tantissimo tempo danza, continua a danzare, vorrebbe andare oltre, speriamo che la cosa riesca. Intanto ti prego di salutare gli ospiti e leggere il comunicato. Ciao a tutti, sono Jenny. Leggiamo il comunicato. Allora, l'avviso a tutti i cittadini del censimento popolazione e abitazioni. Le schede di rilevazione della popolazione vengono distribuite da Poste Italiane nel periodo 12 settembre-21 novembre. Ogni famiglia che non riceve il questionario per assenza di componenti, per imprecisione dell'indirizzo o altre motivazioni, può ritirarlo presso l'ufficio comunale di censimento nei locali dei servizi demografici successivamente al 10/11/2011. In caso di smarrimento o deterioramento della scheda, potrà essere richiesto il duplicato del questionario presso lo stesso ufficio. In caso di famiglia con oltre il numero 6 componenti, il questionario dovrà essere richiesto presso lo stesso ufficio. La compilazione del modello dovrà avvenire con riferimento alla data del 9 ottobre 2011 e consegnato dal 10 ottobre al 10 novembre circa. Lo stesso potrà essere compilato e trasmesso tramite il sito censimentopopolazione.istat.it via web o consegnato all'ufficio censimento del proprio comune oppure in un ufficio postale del territorio nazionale. In alternativa alle predette modalità, dal 20 novembre la famiglia potrà ricevere la visita di un rilevatore che ritirerà il questionario compilato o presterà assistenza alla compilazione ove necessario. Ciascun rilevatore porterà un cartellino identificativo timbrato dall'ufficio comunale di censimento. La mancata compilazione e presentazione del questionario o il rifiuto del cittadino comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte dell'Istat. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l'ufficio comunale censimenti sarà aperto al pubblico nei giorni giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Bene, era il comunicato del Comune di Cefalù, ringrazio. Sì, grazie a tutti. Grazie a tutti, avete visto, insomma, una ragazza che ci sa fare, una ragazza che ha anche la dizione, sentivate come chiudeva bene le O, apriva bene le E. Bene, complimenti, resta con noi. Intanto riparliamo di quell'argomento di cui abbiamo fatto cenno prima, degli ospedali. Adesso parleremo del San Raffaele Giglio di Cefalù per quella missiva che l'assessore Russo, assessore alla sanità alla regione siciliana, aveva emanato la chiusura di alcune sale operatorie. Oltre, in passato, come avete sentito dal sindaco Ferrarello, il sindaco di Gangi aveva già chiuso l'ortopedia per accorparla in altre, insomma, per tagliare, visto che c'è una crisi economica abbastanza grave, e ha pensato bene di tagliare e accorpare alcuni reparti. Questo per quanto attiene l'assessore Russo, salvo poi far dietro fronte su pressioni, appunto, non soltanto dei politici, ma come diceva giustamente il sindaco Ferrarello, su pressione anche dell'intero comprensorio delle Alte Madonie e non solo. In diretta telefonica abbiamo in questo momento il consigliere provinciale Gil Cortina, so che è impegnato in una riunione alla provincia e lo ringrazio per il tempo che ci dedica. Gil, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ti chiedo scusa se ti estrapolo un attimo dal consesso. No. Allora Gil, senti, noi abbiamo assistito, perché c'era anche CRM, a una tua rappresentazione di protesta davanti il San Raffaele Giglio di Cefalù. La protesta, presumo, era per l'annunciata chiusura della sala parto di Cefalù, è così? È corretto? Sì, è corretto, ma non solo per questo, perché ho ritenuto che l'assessore Russo aveva preso una baglia, perché come hanno detto anche altri sindaci, altri componenti del Stato Affari Giglio, Cefalù ha avuto un trend che era sempre del 40-50%, quindi non si capiva la chiusura del reparto di ostetricia di Cefalù e non quella di Termini Imerese. Gil, scusami, scusami. Sì. Allora spieghiamo alla gente che ci ascolta, la normativa di legge nello specifico recita, prevede che, prevede che i reparti che hanno raggiunto 500 parti devono essere chiusi, però noi sappiamo benissimo che in qualsiasi cosa bisogna avere anche un minimo di tolleranza, anche perché parliamo dello specifico di Cefalù. Sì. Cefalù dal 2006 al 2011, sì, ha avuto un incremento pari al 40%. Quindi andiamo oltre. Esattamente, se noi facciamo il calcolo, Cefalù andava quasi dalle 480 alle 490 parti. Diciamo, sì, sì. Nel momento in cui lui voleva chiudere l'ospedale di Petralia, sì, no? Che hanno 160 parti, uh-huh, io presumo che il 20% delle alte madonie, quindi Petralia Sottana, andava a Cefalù. Certo. Quindi lui sicuramente, anche stando sui numeri, e pensiamo che chiudesse l'ospedale di Petralia, sì, non poteva chiudere quello di Cefalù, perché il 20% della popolazione delle si riversava giustamente a San Raffaele e andava a Cefalù, quindi San Raffaele di Cefalù. Pronto? Andava, sì, la sento. Pronto? Pronto, sì, la sento, mi sente? Sì, adesso ti sento. Sì, quindi l'ospedale di Cefalù andava oltre 500 parti. Gil, ti fermo un attimo, perché a me sorge un grosso dubbio in testa, ed è questo. Quando ci sono degli ospedali di eccellenza, il San Raffaele è ancora, mi auguro, tra questi, se noi operiamo ancora di più con gente con altro 20-30% che vengono a usufruire dei servizi, non andiamo a discapito della qualità? Perché poi c'è da velocizzare, da correre, tu sei anche un addetto ai lavori. No, quindi io ritengo che oltre i numeri è anche giusto la qualità, però se un ospedale d'eccellenza, io lavoro in un ospedale privato, sì, che ci occupiamo di cardiochirurgia, sì, e abbiamo alti numeri, forse siamo uno dei più grossi ospedali che c'è in Sicilia come interventi, si può fare anche la qualità. Ma secondo me il problema è solo esclusivamente politico. Cioè, perché, spiegati meglio. Ti spiego perché. L'ospedale di Petralia non vogliono chiudere soltanto le reparto di ostetricia, hanno chiuso l'ortopedia. La chirurgia e l'ortopedia. Esatto. Ma due giorni fa l'assessore Russo con il presidente Lombardo sono andati ad fare una convenzione con Villa Teresa di Bacheria, con il polo oncologico, con il polo ortopedico di Pizzoli. Ah, e quindi cosa facciamo noi? Chiudiamo il reparto di ostetricia per fare tagli, uh-huh, e poi abbiamo l'ortopedia ogni 15 km, perché abbiamo l'ortopedia a Cefalù, abbiamo l'ortopedia a Termini Imerese, abbiamo l'ortopedia a Bagheria. Scusami, ma la convenzione, scusami l'ignoranza, la convenzione con questo nuovo ente privato non, sì, comporta un esborso di denaro da parte della regione? Sì, però loro cosa dicono? Che nel momento in cui loro fanno un polo ortopedico d'eccellenza, sì, le persone non vanno più né a Bologna né a Milano. Scusate, se noi abbiamo un polo ortopedico d'eccellenza a Cefalù con i Rizzoli e poi gli ospedali di Palermo, non si capisce dove sta il problema. Quindi secondo me è soltanto un problema politico, esclusivamente politico. E poi la mia protesta era anche per cercare i politici delle Madonie di riprenderci la nostra entità e la nostra dignità, perché è assurdo che, tra virgolette, i palermitani ci devono dire quello che dobbiamo fare nelle Madonie. Bravo. E questa è la cosa più importante che noi dobbiamo fare. Ma secondo me la nostra entità, cioè i politici, dobbiamo mettere i programmi in atto delle Madonie e farle presente a chi ci rappresenta alla regione e a chi ci rappresenta a Roma. Io questo chiedo. Gil, il problema secondo me è che bisognerebbe cambiare questa stramaledetta legge elettorale, perché così come è fatta nessuno risponde a nessuno. Cioè dire, se io vado a votare per una persona che mi è stata calata dall'alto, un domani non posso andargli a dire: guarda che io ti ho votato, tu mi devi rispondere sulle azioni che stai ponendo in essere. No, queste neanche ci dicevano, quindi appunto dico, sarebbe opportuno che tutte le forze piccole, grosse, di maggioranza bipartisan, ci attivassimo, perché finalmente vogliamo avere un capro espiatorio. Questo ping pong, questo scaricabarile deve pur finire prima o poi. Non si può andare avanti di questo passo. Io mi auguro anche che questo, la legge elettorale venga cambiata, ma ancora la cosa che io voglio dire di più, e questo io l'ho detto anche a Stefano Cirillo, sì, cioè l'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù, che è un punto d'eccellenza, ma ci sono pure delle cose che non vanno. Perché io ho presentato una lettera al dottore Cirillo, sì, e ancora aspetto risposta. Aspetta, spieghiamo che il dottor Cirillo è il presidente della Fondazione San Raffaele Giglio. Sì, prego. Sì, dove io gli dicevo perché l'ospedale di Cefalù non fa più chirurgia generale. L'ospedale di Cefalù, ci sono lunghe liste d'attesa per le visite e per gli interventi. Non capisco perché l'ospedale di Cefalù deve mandare via i vecchi infermieri, tra virgolette, vecchi infermieri e vecchi medici che appartengono all'ASL. Quindi anche l'ospedale di Cefalù dobbiamo chiedere certe cose. Hanno delle responsabilità. Gilli, io intanto ti ringrazio per la testimonianza che hai dato. No, sia davanti al perché con la sanità, cioè con i morti, con i feriti, con la sanità, con la salute, si ci scherza poco e non si fa carriera politica. Tu questo me lo insegni, perché sei nella politica. Scusa se ti devo, la cosa più grave è cos'è? Che se tu parli con i componenti di centrodestra, sì, la colpa è di centrosinistra. Sì. Se tu parli con quelli di centrosinistra, la colpa è di centrodestra. Ma insomma, allora la colpa di chi è mia? Sì, è chiaro, è normale. La colpa è di chi si sente male, perché non deve sentirsi male, come si permette. Spiegato. Quindi Gille, fermiamoci un attimo, sappi che i nostri microfoni sono sempre aperti, il mio telefono è a tua disposizione, per qualsiasi forma di protesta sarai sempre ben accetto per darti voce e per dar voce a chi porta avanti delle tematiche di una certa rilevanza ed importanza, per quanto attiene poi la salute, figuriamoci. Grazie Gil, ti lascio il tuo grazie lavoro, ci sentiamo grazie, poi fuori onda, grazie a te, voi. Grazie a Gil Cortina. E allora, che te ne pare? Vedi come si scherza con la salute della gente? Infatti, sono rimasta un po' scioccata. Cioè chiudiamo, apriamo, mettiamo, cioè stiamo giocando ma veramente con la salute della gente. Senti, tu che idea ti sei fatta della politica? Io guarda, non mi fido di nessuno, quindi... E fai bene. Sì, evito proprio l'argomento, perché sarebbe interessante la politica, Però per quello che è... Tu, secondo te, la politica cosa dovrebbe fare per essere veramente tale, per essere etica? E adesso non lo è, chiaramente, non ha nulla di etico. Intanto bisognerebbe ridurre gli stipendi, così capiremo che le persone lo fanno per passione e per dei valori, non lo fanno per i soldi. Beata innocenza, io avrei proposto la stessa cosa, ma ahimè, ciò non è possibile. Ci fermiamo un attimo, io devo dare la voce alla mia pubblicità, cioè agli ospiti, agli sponsor. Capisco che non è una bella cosa passare da argomenti molto scottanti, molto importanti, a cose che potrebbero sembrare più frivole, però senza gli sponsor i programmi non si possono fare. Allora, Natura e Gusto, carni, formaggi, prodotti agricoli dal produttore al consumatore, lo trovate in via Libertà 138 a Finale di Pollina. Ricordate, non è soltanto una macelleria dove potete comprare la carne con tracciabilità e quindi portare a casa la squisitezza della carne di un tempo, perché i foraggi sono genuini nei nostri pascoli, ancora nelle Madonie. Ne parlavamo prima con Gilli, che diceva dobbiamo riappropriarci dell'essere madoniti, che è una cosa diversa che essere di altre zone, anche se poi siamo tutti quanti siciliani. E quindi anche i prodotti come i formaggi e così anche i prodotti agricoli sono in assenza totale di anticrittogamici, ma prodotti veramente genuini, fatti in una terra coltivata come un tempo. Natura e Gusto, carni, formaggi, prodotti agricoli dal produttore al consumatore, via Libertà 138 a Finale di Pollina. Vi do la email bio@pec.it. E ancora, se vi trovate a Castelbuono, dovete andare per forza maggiore di cose a cena o a pranzo in un locale che già la dice tutta la lanterna, gastronomia tipica locale. Pensate, lì avete l'opportunità di assaggiare primi pasti come pasta fresca casareccia all'olio d'oliva e prodotti dell'orto locali, funghi stagionali di bosco raccolti nelle madonie. Insomma, la lanterna di Castelbuono vi mette veramente d'estate. Poi c'è del pesce che è straordinario, ma a partire dal mese di settembre la lanterna non offre più ai propri clienti, per una questione di scelta politica, chiamiamola così, Il pesce, ma vi fa mangiare delle cose straordinarie, le pietanze a base di carne provenienti dai pascoli madoniti. Ragazzi, ne parlavamo prima a proposito dell'altro sponsor, e poi i dolci che sono realizzati secondo le antiche ricette locali. Insomma, la curiosità è donna ma è anche uomo, la gola va un attimo solleticata. Andate quindi alla trattoria La Lanterna a Castelbuono e naturalmente vi auguro buon appetito. Detto questo, io direi un attimo di dare la linea alla regia, facciamo una pausa musicale e tra 5 minuti ci sentiremo col sindaco di Petralia. To be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it, lose my cool. When I smile, tell me some bad news. Follow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. The sad man behind blue eyes. Ti hai sentito appena, era la mia voce che andava sul jingle. Vi ricordo, chi volesse seguirci invece in diretta anche televisiva, dico bene Eusebio? No, dico Raul Bova il piccolo che sta dietro. Il guaio è che quando io entro e ci vediamo mi ricordo il nome, poi mi sfugge, perché non è un nome comune, insomma è un bel nome tra l'altro. Allora, dicevo, potete seguirci su Facebook, su www.facebook.com, oppure sul nostro sito internet che è www.crm piredio.it, e oltre a sentirci potete anche seguirci e quindi vederci audio video. Abbiamo in diretta telefonica il sindaco di Petraria, questa cittadina nell'Alta Madonia, e nell'Alta Madonia è molto bella, devo dire, caratteristica, oltre ad avere dei monumenti straordinari ha anche un cinema, pensate, che funziona, dove si fanno delle situazioni anche molto belle di teatro, di spettacoli vari, e oltre ad avere questo ospedale che è un po' fuori di Petraria Sottana, sul, diciamo, di spalla al paese, che sta avendo dei problemi, è stato preso un po' di mira. Sentiremo adesso il sindaco invece cosa ci dirà in tal proposito. Dottor Inguaggiato, buongiorno. Buongiorno. Grazie per aver accettato l'invito intanto. Grazie a voi per averci invitato e per averci dato la possibilità di far conoscere a un pubblico più vasto la problematica del nostro ospedale. Allora, già Ferrarello qualcosa ha fatto cenno, no? Però lei è il capofila, cioè è il suo comune in primis che si prende, voglio dire, la briga di lottare affinché non vengano chiuse ancora reparti o che addirittura non rischi la chiusura totale l'ospedale. Secondo Ferrarello e secondo Gil Cortina è una questione politica. Lei condivide? Condivido certamente, io faccio presente che mi sento l'onere di essere il capofila e quindi di coordinare l'iniziativa, ma voglio ribadire che questa è stata ed è una battaglia di tutto il territorio nella quale i sindaci hanno profuso tutte le loro energie perché da una parte venisse contrastato il disegno di smantellamento del nostro nosocomio e dall'altra si affermasse il nuovo profilo che deve avere un ospedale a 1000 metri di altezza e che serve una comunità che non può facilmente raggiungere gli altri ospedali sia per i tempi di percorrenza, sia per le distanze e sia per la scarsa viabilità. Sindaco, lei si è posto sicuramente sì, io lo penso sempre perché anch'io sono madonita, vivo su Castelbuono ma vengo da un paese che è a 1100 metri sul livello del mare con 22 km dal bivio, per cui quando ci sono infartuati, quando ci sono gravi incidenti, insomma è un trauma riuscire a portare l'infartuato o per meglio dire la persona che ha delle patologie piuttosto gravi in pochi secondi presso il primo ospedale vicino che dista 45 km sarebbe Cefalù. La cosa che io le chiedo è questa: non sarebbe anche opportuno lottare per avere un elisoccorso nelle Madonie? Sotto questo punto di vista devo dire che siamo già in una situazione avanzata. Noi siamo destinatari di un finanziamento per la realizzazione di un eliporto accanto al nostro ospedale che dovrebbe essere, diciamo così, agibile, funzionante 24 ore su 24, quindi con strumentazioni particolari. E posso sempre per quanto riguarda l'eliporto dire che per accelerare i tempi di realizzazione, visto il finanziamento ottenuto dalla Protezione Civile, il Comune di Petraria Sottana ha messo a disposizione i propri uffici per redigere il progetto che è stato consegnato, avendo lavorato d'intesa con gli altri uffici che hanno competenza in materia, Protezione Civile, ENAC, ENEL e così via, è stato consegnato credo una ventina di giorni fa alla Protezione Civile, alla Direzione Regionale della Protezione Civile, e penso, spero che nell'arco di un mese dovrebbe e potrebbe esserci già il bando. Sindaco, la gara, ecco. Ecco, sì, mi diceva il suo collega di Gangi, Ferrarello, che avete scritto una lettera al presidente della regione nella quale chiedevate un incontro. Lei è fiducioso che questo incontro avvenga in tempi relativamente stretti? Ma guardi, noi la lettera l'abbiamo scritta, è stata recapitata ieri e abbiamo già un primo riscontro dal capo di gabinetto della presidenza della regione, quindi del presidente Lombardo, circa il fatto che la lettera è stata tempestivamente portata a conoscenza del presidente che si trovava fuori sede a Roma ieri e che il presidente ha mostrato l'interesse che la lettera sollecita. Ecco, Devo dire che ieri si è verificato anche un fatto importante rispetto come riscontro alla nostra mobilitazione, una lunga riunione della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale si è conclusa con la decisione di non pubblicare il decreto che sostanzialmente tagliava i punti nascita e di rinviare la pubblicazione a un momento successivo affinché un mese probabilmente ci sia il tempo necessario per approfondire la questione, visto che non solo Petralia ha detto no a questo taglio del punto nascita, e capire, premesso che il decalogo nazionale per quanto riguarda la sicurezza in sala parto e per la mamma e il bambino è assolutamente condivisibile sul piano scientifico, per capire quali comuni, quali ospedali devono essere destinatari di deroghe. Questo ci sembra un fatto importante che noi speriamo di legare a questa audizione, a questo incontro con il Presidente della Regione, dove la questione non sarà il punto nascita, la questione sarà il ruolo che l'ospedale deve avere e quali funzioni, quale operatività mantenere, quindi con quali reparti, con quali professionalità, con quali strumentazioni, con quale organico, perché possa affrontare e risolvere in loco situazioni di emergenza, perché il fine ultimo è quello della tutela della salute, ma soprattutto in casi di emergenza della vita dei cittadini delle Madonie. Non c'è dubbio, Sindaco, io colgo l'occasione, visto che ce l'ho e non ci vediamo spesso, noi ci siamo incontrati personalmente a proposito di una manifestazione fatta nel vostro stupendo teatro cinema, sì, che avete a Petralia, peraltro mi onoro di avere molti amici del suo paese e mi congratulo per come tenete il paese, Sindaco, ma fatta questa premessa, non è plagio ma è la realtà dei fatti, i paesi delle Madonie sono tutte quante belle, e la cosa che mi fa molto piacere, mi creda, da osservatore, da conduttore di questa trasmissione, è che finalmente i sindaci non solo voglio dire prendono visione politicamente dello status quo dove versano i propri concittadini e ne prendono atto e quindi protestano, ma per la prima volta io credo si sono tolte le barriere bipartisan di questi benedetti paletti di politica di partito, cioè dire non esiste che ci sia il sindaco di destra che non va d'accordo con quello di sinistra quando si parla di solidarietà, quando si parla di cittadinanza, quando si parla di salute. Avete fatto, voglio dire, vi ha fatto un encomio, perché comunque avete abbattuto delle barriere e vi siete messi insieme a favore e a fronte per fronteggiare una crisi nazionale che poi comporta tagli e quant'altro, lei meglio di me sa queste cose perché le amministra nel quotidiano, ma per la prima volta devo dire che almeno in piccolo gli esponenti di diversi paesi, di 9 comuni, hanno tolto le barriere politiche e partitiche di mezzo a favore dei propri cittadini. Questo vi fa molto onore, Sindaco. Grazie. Posso dire qualcosa in merito? Prego, Sindaco. Allora, il suo riconoscimento mi fa molto piacere e spero che sia il riconoscimento e quindi una sensazione diffusa nella nostra popolazione. Noi abbiamo fatto non pochi sforzi per superare, diciamo così, il senso di appartenenza di ognuno a un'idea, a un progetto politico, a un partito politico. Ma il fatto di avere messo al centro delle nostre rivendicazioni poi, sì, il territorio, non significa che abbiamo superato le differenze politiche, significa che abbiamo proprio nell'interesse della politica, quella nobile, cercato di superare le differenze per fare in modo che il territorio possa beneficiare dell'apporto di ciascuno di noi. Ho voluto fare questa precisazione perché monta, cresce nelle nostre zone, come ovunque, l'antipolitica, sì, che è un atteggiamento che tende a dire che tutto ciò che rientra nella politica è sporco. Io mi rifiuto rifiuto questa idea, mi rifiuto di avallarla E metto in guardia anche coloro che portano avanti queste tesi e queste idee, poiché dall'antipolitica noi sappiamo, sia con esempi recenti, sia con esempi più passati e anche remoti, che sono venuti fuori tanti piccoli tirannelli che hanno cavalcato la tigre del momento, facendo poi le stesse cose per le quali si erano eretti a giudici. Ecco, io questo aspetto lo vorrei chiarire, l'ho detto anche l'altro ieri quando i sindaci mi hanno onorato di intermerire a nome di tutti nella grande manifestazione di lunedì scorso. Sindaco, lei è stato molto esaustivo, ancora le mie congratulazioni, perché ribadisco, se a livello nazionale, a livello regionale e provinciale i partiti, una volta tanto, quindi gli uomini che fanno i partiti, perché poi sono uomini, non sono certo cervelli elettronici, si rendessero conto che bisogna stare uniti in un momento di crisi economica, in un momento dove la gente non sa manco più come pagare una bolletta della luce, di essere più trasparenti, più vicino alla gente, tralasciando magari, ecco, il proprio egoismo partitico e politico a favore di cose più nobili, cosa che voi in questo momento avete fatto, quindi mi auguro che gli altri vi possano emulare, sindaco. Grazie. Io ringrazio lei. Un'ultima domanda, sindaco, prima di salutarla, sì, e lasciarla alla sua, al suo lavoro, che è abbastanza gravoso. Anche questo è lavoro, cercare di partecipare al dialogo del territorio anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Lei sappi, come ho detto a Ferrarello, a Davide e ad altri amici, sappi che i nostri microfoni, il nostro editore è una persona molto ravveduta, molto moderato, e dà la possibilità a tutti quanti, il mezzo radiofonico, televisivo e mass media, a questo devono servire, se no a che cosa? A dare voce a chi voce vuole dare, per spiegare agli altri quello che si sta facendo nel bene o nel male, cioè ragguagliare le persone su tutto quello che un amministratore, un giudice, un giornalista, un medico sta facendo, quanto di bene e se a volte è di male per la gente, insomma, voglio dire, bisogna essere sempre attenti, puntare le telecamere e dare il giusto spazio a chi si sta impegnando per delle cose sacrosante e a favore della gente. Questo poi è il fine ultimo, sindaco, quindi voglio dire, si figuri, quando lei vuole ci chiami pure, i nostri microfoni sono a sua disposizione. Grazie. Detto questo, prima di salutarla e salutare la sua comunità che è straordinaria, volevo chiederle questo: gli ultimi tagli della nuova manovra finanziaria hanno depauperato un po' i vostri progetti per quanto attiene per esempio gli asili, le scuole, i pullman, i servizi in generale. Lo status quo del suo comune in questo momento com'è? Allora, il mio comune è nelle stesse situazioni di tutti gli altri. Se la manovra dovesse confermare i tagli, è chiaro che noi dobbiamo ridurre i servizi alla persona, ma questo significherebbe far venir meno un ruolo fondamentale del comune. Io ritengo che gli amministratori hanno dato buona prova di sapere ben utilizzare le risorse che hanno e di saperle equamente ripartire per intervenire nei vari campi in cui è chiamato in causa il ruolo del comune. Sì. Ma sostengo anche che la situazione è molto molto dura e difficile, e che nessuno di noi si sottrarrà alla, diciamo così, a mettere in atto il rigore necessario, ma fino a quando ci saranno sperperi e ruberie, e la sanità è stato uno dei settori dove sono venuti fuori queste cose, esatto, queste cose, fino a quando la evasione e l'elusione fiscale avranno le dimensioni che noi ancora oggi conosciamo, e non ci sarà una energica azione per ricondurre nelle casse dell'erario tutta questa ricchezza, che diventa invece un beneficio per pochi, noi avremo grossi problemi. Quindi il rigore sì è necessario, ma occorre che sul binario parallelo marci il risparmio ad altri livelli, marci si metta in moto la macchina per ridurre gli sprechi, le ruberie, e contemporaneamente per recuperare integralmente la evasione e l'elusione fiscale. Un'ultima considerazione me la consente, sindaco? Prego. Io sono per la meritocrazia e non mi piacciono gli stipendi di altissimo bordo, in ultimo alla regione ci sono tutte queste persone esperte così chiamate che vengono messe in questo o in quell'altro ufficio, non so con quanti livelli, decimo, undicesimo, con 270-300 mila euro l'anno. Presumo che in un momento di crisi dove c'è gente che muore di fame, fattivamente questi sperperi vanno un po' ridimensionati. Noi nella regione siciliana abbiamo fior fiori di dirigenti che potrebbero benissimo sostituire altri già con il loro stipendio, non c'è bisogno di esuberi, io credo. Non è d'accordo con me? Io concordo perfettamente nel valorizzare al massimo le risorse interne alla regione siciliana. Però faccio un distinguo: se la regione ha bisogno di competenze professionali, manageriali che non sono presenti nel suo organico, deve poter attingere anche all'esterno, ma questo non può significare che ogni assessore si porta dietro il codazzo che gli piace mettendolo a carico dei cittadini. Questo è inaccettabile. Bravo sindaco. Lei mi era già simpatico, adesso non è ancora molto di più. Grazie. La lascio al suo lavoro ringraziandola sentitamente per quello che lei sta facendo per l'intera comunità madonita, perché insomma poi anche i paesi vicinori tipo Geraci, San Mauro, ne usufruiranno come ne usufruiscono fino adesso, e quindi grazie anche a nome di quelle collettività che non possono esprimersi radiofonicamente parlando. Le auguro un buon lavoro e mi raccomando, signor sindaco, si tenga stretto Petralia perché è una bellissima cittadina. Grazie a lei ancora ora e buon lavoro anche a voi. Grazie, a risentirci. E allora linea alla regia. Siamo di nuovo in diretta, ancora 5 minuti e la trasmissione termina. Abbiamo ascoltato tre personaggi, due sindaci e un consigliere provinciale, tutte e tre d'accordo sul fatto che bisogna protestare veementemente per la sanità, perché bisogna dare alla gente la possibilità di curarsi, cosa che negli ultimi tempi non si stava verificando, soprattutto nel nosocomio di Petralia. Abbiamo ascoltato Inguaggiato che ha detto le cose molto sagge, il fatto che 9 sindaci siano uniti per dare la possibilità ai cittadini di avere giuste cure nel più vicino nosocomio possibile, quello di Petralia. Per quanto attiene l'assessore Russo, ha fatto, vi ricordo, marcia indietro, per cui è tutto in stallo. Stiamo aspettando che sia il sindaco di Petralia che gli altri 9 sindaci, ne ricordo a memoria 2, Davide di Polizia Generosa e il Ferrarello di Gangi, saranno ricevuti dal presidente della regione, al quale porteranno le dimostrazioni di tutti i loro concittadini. Ci auguriamo che questa querela si chiuda qui, che si faccia una buona sanità. Giusto diceva Inguaggiato prima, ci sono stati degli sperperi in tutti i campi, ma soprattutto nella sanità ultimamente c'è stato il mangia mangia generale. Poi chiaramente, a fatta dei conti, i nodi arrivano al pettine e l'assessore Russo, a torto o a ragione, non sta a me certo qui giudicarlo, ha pensato bene di fare degli accorpamenti e di tagliare, perché se poi non si taglia si rischia la bancarotta. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. I nostri microfoni sono sempre aperti per chi volesse fare delle denunce a torto o a ragione. Poi naturalmente saranno i radioascoltatori e chi vorrà seguirci a dare i propri verdetti finali. Noi siamo un mezzo per il quale, insomma, chi vuole può servirsene per denunciare tutto quello, i misfatti e i fatti che succedono nel nostro Interland e non solo. Volevo, prima di chiudere e dare lettura degli ultimi due sponsor, ricordarvi che in Grecia ancora purtroppo, ahimè, ci sono degli scontri con le forze dell'ordine. Pensate, i trasporti sono totalmente fermi, le scuole sono chiuse, gli ospedali attivi solo per le emergenze, la Grecia è paralizzata dallo sciopero generale contro i tagli imposti dal governo per scongiurare il fallimento. Noi ci auguriamo, almeno fino ad oggi, il Sole 24 Ore, nonostante l'agenzia americana abbia declassato ancora di più i fondi di investimento italiani, le borse e soprattutto quella di Milano, la borsa di Piazza Affari è riuscita ieri ad avere un più 1, più 2%, insomma in percentuale è andata su, quindi ci auguriamo che almeno in Italia tutto questo non accada. L'Unione Europea si sta mobilitando con la Banca Centrale per dar forza alle banche di ogni singolo Stato per evitare appunto il tracollo, è quello che sta succedendo in Grecia. La Merkel, il primo ministro tedesco, è stato lungimirante, ha dato con il Bundestag, ha dato il via libera agli aiuti insieme a tutti gli altri paesi della comunità economica europea alla Grecia, perché se no, se la Grecia non viene aiutata, rischiamo l'effetto domino, cioè dire che parte la Grecia, poi ha preso Spagna, Portogallo, Italia e così via. Non ce lo possiamo consentire, siamo in un momento veramente topico, però ad ascoltare un po' quello che hanno dichiarato i sindaci in questo momento c'è da stringere la cinghia a tutti quanti, perché no? Speriamo che lo facciano i politici, quelli veri di Roma e di Palermo, regione e governo centrale. che diano loro, voglio dire, un segnale forte di senso di giustizia, di senso di responsabilità, in modo tale che noi cittadini possiamo dire ok, loro stanno facendo i loro sacrifici, noi siamo pronti a fare i nostri. Se così non dovesse essere, capite che si rischia qualcosa di più grosso. Ci auguriamo che questo non accada mai. Volevo ricordare un appuntamento per tutti le maestranze della formazione, quest'altra grossa macigno che è caduto in testa a circa 6.000 persone, 2.000 delle quali sono veramente in uno stato di degenza straordinaria. C'è gente che ha perso casa, ci sono stati pignorati dei beni immobili, si trova addirittura nelle condizioni, detto da un deputato regionale quale Salvino Caputo, che qualcuno è stato costretto ad andare in chiesa per la spesa. Figuratevi la dimensione umana, a che punto è arrivata la dignità di chi ha lavorato per 4-5 anni, per 20 anni, per 25 anni, accendendo anche dei mutui per i propri figli, per acquistare una casa, come tutte le famiglie fanno dei progetti, poi di punto in bianco per un'insana capacità di gestione o da parte della regione o da parte degli enti stessi non si capisce da che parte sta il torto. Cercheremo di capirlo sabato alle 17.30 alla Sala delle Capriate. Verrà appunto il deputato Acefalù, verrà il deputato della regione che si è occupato della formazione, facendo anche presentando presso la regione siciliana degli emendamenti con delle richieste ben precise, ma le risposte purtroppo non sono ancora arrivate. Le maestranze non sanno cosa fare, sanno che sono in cassa integrazione, ma comunque ancora dopo 18 mesi non percepiscono stipendi. Vi ricordo quindi l'appuntamento di sabato alle ore 17.30 a Sala delle Capriate nel comune di Cefalù, di fronte, per chi non lo sapesse, di fronte la cattedrale, con la partecipazione di Salvino Caputo, l'onorevole Caputo. Ci saranno anche sicuramente alcuni rappresentanti degli enti locali, tra cui mi auguro il sindaco Guercio e un assessore al posto del sindaco di Castelbuono. Chi vuole partecipare, le porte sono aperte, così ci rendiamo meglio conto di cosa sta succedendo dentro la regione e cosa succede invece presso gli enti preposti alla formazione. Detto questo, io ringrazio la nostra carissima amica. Grazie a te. Ciao a tutti. Hai visto che voce, insomma, farà sicuramente successo. Ringrazio la parte tecnica, il mio piccolo Raul Bova, piccolo non di statura, anche quello, siamo piccolini entrambi, ma piccolo d'età. Lo ringrazio ancora, e si sacrifica tantissimo ed è, devo dire, un bravissimo tecnico. Gli farei degli applausi, ma non ho la console davanti per far partire gli applausi, questo dovrebbe farlo lui. Ecco, glielo fanno gli ospiti in studio. E da parte mia l'appuntamento dopo di me con una trasmissione bella, dai bye dai. E poi noi ci risentiamo, anzi ci risentirete domenica prossima alle ore 9.30 fino alle 10.30 con la replica di questa puntata che è andata in diretta. Giovedì prossimo con un'altra diretta, ancora altri argomenti. Da Filippo Gloso tutto, grazie a tutti quanti voi, agli sponsor. Anzi, prima devo ricordarvi due cose a proposito degli sponsor, li stavo già dimenticando. Non scordatevi, se vi trovate a passare da Finale di Pollena, di fermarvi per andare a gustare le cornie di Gastropoli, che è rosticceria ma è anche... e anche ristorante, in via Einaudi numero 12, con i primi pasti e gli antipasti che sono veramente straordinari perché sono casalecci. Poi i primi piatti con tagliatelle al sugo di cinghiale, ragazzi, mi è venuta già fame, frutti di mare, spaghetti con i frutti di mare, che profumo lo sento già da qui. E poi i piatti con pollo arrosto, carne di cinghiale, vitello, agnello, le stigliole, quindi ricordatevi Gastropoli, rosticceria e anche ristorantino, lo trovate in via Einaudi 12 a Finale di Pollena. Per le vostre prenotazioni 0921 4261 121. Mi pare sì, c'è un'ultima nota: bisogna che si arredi la casa, il vostro giardino. Cosa bisogna fare? Nulla, bisogna telefonare a Nuova Edilizia Siciliana a Campo Felice dell'Occello, andare a visitare lo showroom che questa azienda ha, perché pensate, oltre a strutturarvi la vostra casa interna ed esterna con la polvere di marmo, fanno veramente dei veri e propri capolavori. Non vi dico nulla, andatela a trovare in via della Provincia 15 a Campo Felice di Rocella. Non dimenticate questo nome: Nuova Edilizia Siciliana a Campo Felice di Rocella. Andateci a nome di Filippo Glorioso, sicuramente qualche omaggio vi sarà fatto. Buon weekend a tutti, cercate di essere sereni quanto più vi è possibile, sperando che le cose migliorino sempre di più. Un abbraccio a tutti, grazie ancora da Filippo Glorioso, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di